mai intravidi anime del tuo colore. Come perla lo tengo fra le mani, il dono alle madri degli eroi è siringa d'empatia, percorre le vene alle tue braccia come io quando ero bambino.